Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salvadanaio. Oggi abbiamo una nuova puntata di una soap opera che praticamente stiamo seguendo dal 2001. Stiamo parlando della bancarotta dello Stato argentino, appunto, di quell'anno, ed è un percorso, quello che abbiamo intrapreso all'epoca, che ancora stiamo portando avanti e del quale tutto sommato non vediamo ancora la fine. Ci sembra in certi casi ancora un vero e proprio tunnel, di sicuro lo rappresenta per molti risparmiatori italiani che sono rimasti vittime di questo default, di questa bancarotta, e ancora cercano di capire quale strada percorrere per recuperare il denaro investito all'epoca, qualche anno prima, e che poi appunto non si sono visti restituire da questo Stato sovrano. E allora, perché oggi ritorniamo, qualcuno di voi dirà, per l'ennesima volta su questo argomento? D'altronde le vittime di crack finanziari in Italia sono stati tanti, e ovviamente vittime di tante situazioni di cui abbiamo parlato anche tante volte, Parmalat, Cirio, ma anche casi minori. Noi ritorniamo ancora sul caso argentino, perché questo ogni tanto segna una novità. E la novità della quale vogliamo parlare oggi, appunto, è stata anche riportata su diversi giornali negli ultimi giorni, e cioè che cosa è successo. Come sapete, c'è in corso la seconda offerta del governo argentino, che ha proposto a tutte le persone che hanno ancora vecchi titoli, quelli legati alla bancarotta, appunto, di convertirli in nuovi titoli. In sostanza, c'era questa seconda offerta dopo una prima offerta che era stata fatta nel 2005, alla quale avevano aderito molti risparmiatori a livello mondiale e anche molti italiani. Molti invece erano rimasti fuori da quel primo, cosiddetto, si dice in gergo, finanziario swap. Adesso la novità è che c'era questa seconda offerta, che era stata presentata praticamente a metà maggio, e il governo argentino aveva dato tempo fino al 7 giugno per convertire i vecchi titoli, ma molte banche italiane avevano sollecitato molto caldamente i risparmiatori a dare la loro adesione o meno a questa offerta, addirittura entro la fine di maggio. Quindi c'era stato praticamente una settimana di tempo per molte persone per decidere se aderire o meno a questa offerta, fare tutte le valutazioni necessarie di convenienza, opportunità finanziaria o meno. La novità è che, su sollecitazione di molte banche italiane che si sono rese conto che i tempi erano assolutamente impraticabili, il governo ha deciso di prorogare questa offerta al 22 giugno. E allora tutti gli indecisi stanno cercando di capire, hanno colto ovviamente questa notizia, stanno cercando di capire a questo punto se è bene aderire o meno all'offerta di scambio del governo argentino. E sì, insomma, sembra incredibile, a distanza di quasi 10 anni di tempo da quella bancarotta stiamo ancora continuando a parlare di questo argomento, e ribadisco, chissà per quanto ancora lo dovremmo fare, anche perché è stato un caso che è stato, come dire, enfatizzato anche dal punto di vista politico, perché dal punto di vista politico c'è stato abbastanza disinteresse intorno a questa situazione. Detto questo, noi invece sulle polemiche politiche non entriamo, ma ritorniamo un po' a cercare di guidare per quanto possibile i risparmiatori che ancora hanno in mano i vecchi titoli. In questa nuova offerta ribadiremo le caratteristiche, cercheremo di capire come ci si sta muovendo. Stamattina non abbiamo la task force argentina che sta tutelando molti risparmiatori e soprattutto sta portando avanti i loro interessi davanti al Tribunale Mondiale, davanti all'ICSID, a questo organismo appunto che si occupa di risoluzione di controversie finanziarie. E dentro breve tempo, peraltro, dall'ICSID e da Washington dovremmo avere un'altra notizia, cioè si dovrà stabilire o meno se questo tribunale internazionale è competente a procedere contro l'Argentina. Oggi abbiamo altre associazioni, appunto, che ci diranno un po' come la pensano. C'è chi pensa che davvero quello attuale sia l'ultimo treno per i risparmiatori italiani da prendere, altrimenti non ci saranno più offerte da parte del governo argentino, come effettivamente il governo argentino sta dicendo. Ci sono invece altre associazioni che stanno sollevando altri aspetti e che dicono che questa offerta, essendo ancor più penalizzante della prima, non è da prendere. Quindi le strade da percorrere potrebbero essere altre: l'azione legale contro la banca, ma c'è anche un'iniziativa di un'azione stragiudiziale di cui adesso parleremo. Allora saluto i nostri ospiti, intanto ringrazio di essere ritornato di nuovo a Salvadanaio l'avvocato Paolo Fiorio, legale del Movimento dei Consumatori. Avvocato, buongiorno, bentornato. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E poi saluto e ringrazio di essere con noi anche Gidio Rolice, presidente dell'associazione ART Risparmiatori Tango Bond. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno dottoressa, buongiorno, grazie per l'invito e un saluto ai colleghi che sono presenti. Allora, io ricordo ovviamente il numero verde per gli interventi dei nostri ascoltatori, 800 24 00 24, il numero per invece esprimerci le vostre considerazioni e farci le vostre domande attraverso l'SMS 349 238 6666, ma tanto li conoscete a menadito, per cui io tornerò a ricordarveli, ma li sapete sicuramente molto bene, insomma i nostri canali di collegamento. È slittata al 22 giugno la scadenza entro la quale i risparmiatori in possesso di Tango Bond devono decidere se aderire o meno al nuovo swap proposto da Buenos Aires. Il governo argentino ha infatti allungato di 15 giorni il periodo entro il quale i piccoli risparmiatori italiani potranno aderire all'offerta di scambio sui titoli di Stato in default dal 2001. La nuova proposta per ristrutturare 18,3 miliardi di dollari, almeno 4,5 dei quali in mano ai italiani, scadeva infatti il 7 giugno, ma il governo ha deciso di prorogare il termine dietro una specifica richiesta della Consob e delle banche italiane. A variare dunque è solamente la tempistica. La proposta infatti è sempre la stessa, che di fatto ricalca la precedente del 2005 e offre un'alternativa tra due nuovi titoli, discount con scadenza 2033 che prevede un taglio pari al 66,3% e par che scadranno nel 2038 e non presentano però alcun taglio di valore nominale. Ai piccoli risparmiatori che possiedono obbligazioni per un valore non superiore ai 50.000 dollari saranno corrisposti interessi in contanti a partire dal 31 dicembre 2003. Per chi deciderà di non accettare l'offerta del governo argentino, non resta invece che la strada del ricorso all'ICSID, il Tribunale Internazionale. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi, molte sollecitazioni al numero degli SMS e tra l'altro anche per occuparci di altri casi. Allora io vi prometto che ci ritorneremo sulle vecchie azioni all'Italia che avrebbero dovuto essere convertiti in titoli di Stato. Nessuna notizia, GM, le vecchie obbligazioni, niente rimborsi, ci scrive Renzo. Ci torneremo, ve lo prometto, anche su questi casi. Intanto però, siccome quella dei Tango Bond è una storia che ogni settimana segna una novità, dobbiamo seguire anche questa, anche perché interessa un numero molto più alto di risparmiatori. Allora io volevo per un attimo lasciare, siccome già fra tre minuti devo andare in pausa, chiedo qualche minuto di pazienza a Rolic, perché non l'abbiamo mai sentito, per cui gli vorrei dare un po' più spazio nella seconda parte della trasmissione. Comincio subito con l'avvocato Fiori, a cui chiedo cosa pensa di questa proroga del governo argentino di altri 15 giorni. Mi sembrava che fosse anche abbastanza naturale, in sostanza, che il sistema bancario italiano si muovesse verso questa sollecitazione, perché praticamente è arrivata la seconda offerta, neanche il tempo di comunicarla e già i risparmiatori dovevano decidere cosa fare, quindi mi sembrava il minimo sindacale. Fiorio, che sì, dice? Sì, concordo, assolutamente la proroga è stata corretta, era opportuna, è stata disposta, adesso ci sono 15 giorni in più, i tempi dell'offerta originaria effettivamente erano un po' stretti, questo può consentire, diciamo, anche valutazioni più ponderate da parte degli investitori, che non devono sentirsi più con l'acqua alla gola e la fretta messa da alcune banche, anche in maniera discutibile, forse ingiustificata, che richiedevano l'adesione con largo anticipo rispetto al termine di scadenza. E infatti, avvocato Fiorio, i risparmiatori che state seguendo voi che strade stanno prendendo? Io so bene, insomma, qual è la sua posizione. Voi state in qualche maniera, adesso non suggerendo, perché poi non possiamo neanche fare un suggerimento di investimento, però insomma siete abbastanza convinti che questo sia l'ultimo treno possibile per molte persone? Sì, noi siamo convinti che sia l'ultimo treno possibile, che con l'adesione all'offerta i risparmiatori qualcosa potranno recuperare, che l'arbitrato ICSID è un po' come giocare alla roulette e puntare sul rosso o sul nero e quindi ha delle possibilità di successo sostanzialmente limitate, e comunque ricordiamo che aderendo all'offerta pubblica di scambio è possibile in ogni caso esercitare l'azione nei confronti della banca qualora la vendita dei titoli sia stata viziata o per ragioni formali o per un difetto di informazione nelle operazioni di negoziazione. La ringrazio per aver già subito introdotto questo aspetto. Molte domande di molti ascoltatori, adesso ci arriveremo, però avevo come promesso Gidio Rolice, presidente dell'Associazione Risparmiatori Tango Bond, un'associazione, presidente Rolice, che si è costituita praticamente in che tempi, subito dopo la bancarotta di questo governo, e soprattutto di quanti risparmiatori rappresentate gli interessi? Come vi siete formati in sostanza? Perché non vi riconduciamo a nessuna associazione dei consumatori, ecco. Ma guardi, dottoressa, ART nasce proprio in concomitanza con l'offerta del primo SWOT proposto dall'Argentina. Purtroppo allora non ce ne siamo potuti occupare in quanto non ci sono stati tempi tecnici e avevamo deciso comunque, a fronte delle notizie avute, di bocciare questa iniziativa da parte dell'Argentina, in quanto la ritenevamo e la riteniamo tuttora, diciamo, poco confacente a quanto, in risposta a quanto è successo a 450.000 risparmiatori italiani. E questa volta nell'ambito del secondo swap abbiamo visto un attimino un po' meglio tra le righe e ci pare che, insomma, tutto sommato, quello che dovrebbe essere alla base dell'informazione corretta è giustamente dare delle informazioni corrette. Poi chiaramente l'investitore, il risparmiatore deciderà quale strada prendere. È chiaro però che su un contratto, quindi come lo swap proposto dalla Repubblica Argentina, nel momento in cui il bondholder, sollecitato con lettere, telefonate e quant'altro, si ritrova davanti allo sportello di fronte ad una documentazione sulla quale c'è anche scritto, oltre al fatto che non potrà più adire nei confronti dell'Argentina, anche non potrà più adire nei confronti del fiscal agent, siamo andati incuriositi a vedere che cos'è il fiscal agent. Chi siamo? E a noi risulta essere la banca che ha pagato le cedole e che provvederà al concambio. L'intermediario finanziario, in sostanza, presso il quale si è fatto l'investimento, perché ovviamente non è che io posso andare in Argentina a prendermi un'obbligazione, ho dovuto farlo, essendo in Italia io ovviamente mi identifico in un risparmiatore che ci può ascoltare, quindi ho dovuto per forza utilizzare un intermediario. Assolutamente, e voi assolutamente sì. Chi vi ha dato questa convinzione, in sostanza, ma perché avete interpretato in questa maniera il quanto indica il prospetto informativo, perché non ci sono alternative? Se così non fosse, mi perdoni, perché mettere questa clausola, perché metterla in termini tecnici inglesi, quando sappiamo perfettamente che l'italiano mediamente l'inglese non lo conosce? Ma detto questo, se così non è, basta che le banche mettano nero su bianco, ma nero su bianco non a voce, che nel momento in cui il bondholder accetta questo swap sarà libero comunque di adire nei confronti della banca che gli ha collocato i bond argentini, perché se così non è stiamo parlando del sesso degli angeli. Di fatto però, Rolice, allora, prego. Sicuramente su questo anche Nicola Stock, presidente della TFA, ce l'aveva ricordato in una puntata di una ventina di giorni fa, quando è stato appunto nostro ospite, che su questo il prospetto informativo mi sembra che sia piuttosto chiaro, cioè se si aderisce a questa seconda proposta argentina di sicuro non si può più condurre avanti l'iniziativa con la TFA presso il tribunale appunto di Washington, presso l'ICSID. E comunque, anche se so che a Stock questa identificazione, questa associazione di idee non piace, di fatto la TFA è un organismo che è stato posto in piedi appunto dal sistema bancario italiano, che evidentemente ha degli interessi da portare avanti in tutta questa vicenda così importante, e quindi in sostanza è la stessa cosa. Non andare avanti con la TFA significa non andare avanti appunto contro le banche. Ha capito quello che le voglio dire? No. La TFA, giustamente, come ricordava lei, è un'associazione di emanazione di chi vogliamo essere, sia, e non ci interessa entrare nel particolare, ma è chiaro che l'obiettivo della TFA del dottor Stock era quello di dimostrare e di fare un'azione nei confronti dell'Argentina per dire: Argentina, ti sei comportata male nei confronti dei risparmiatori italiani. E questo è un punto di vista legittimo che va rispettato. Ne parleremo a babbo morto, cioè quando ci saranno i risultati. Quello che dice ART è semplicemente questo: stante il fatto che moltissime responsabilità sono da porre in capo all'intermediario finanziario, o meglio a quelle banche che hanno collocato in Italia i bond argentini, noi ci siamo sempre mossi in questa maniera, ottenendo i risultati che ormai tutti conoscono. Detto questo, quali sono questi risultati, Rolic? Sono state innumerevoli transazioni e anche delle cause vinte, portate a casa con successo da parte dei nostri bondholders grazie agli avvocati che collaborano con ART a livello nazionale. cioè noi non abbiamo la necessità e non possiamo neanche, si sa, pubblicizzare più di tanto queste cose, perché lei lo sa che le transazioni non possono essere sulla base pubbliche. Di quali presupposti avete vinto le vostre cause e avete condotto in porto con successo le cause stragiudiziali? Perché anche questo è importante, perché non per tutti va bene la strada dell'azione legale contro la banca, bisogna anche essere in grado di dimostrare di essere da parte della ragione. Tenerne conto, cioè non è che assolutamente tutti possono essere nella condizione di potersi muovere nei confronti del, in termini legali, bisogna valutare le situazioni, verificare la documentazione e quindi portare avanti tutto un processo che poi al limite arriva a portarci a considerazioni di fare o meno un'azione legale nei confronti della banca. Ogni qualvolta è stato fatto e fino ad oggi queste azioni si sono dimostrate favorevoli ai bondholder e sono pubblicate sul nostro sito, quindi noi non ci limitiamo a mettere causa numero, avvocato tizio, tribunale tot, bisogna mettere giù le sentenze, bisogna spiegare alla gente che c'è la possibilità di vincere le cause nei tribunali italiani, perché ormai è giurisprudenza il fatto che le banche non hanno informato nel modo corretto il risparmiatore nel momento in cui gli collocava il bond argentino. Beh, però non ovunque è successo così, molte banche hanno anche respinto i ricorsi dei risparmiatori, hanno dato ragione, molti tribunali hanno dato ragione anche alle banche. Dottor Rolici, quindi mi faccia capire, i risparmiatori che voi state rappresentando in sostanza li state seguendo solamente per nelle azioni legali contro le banche, pertanto non seguite per esempio anche contestualmente risparmiatori che magari hanno consegnato i loro titoli, che sono seguiti con la TFA di Nicola Stock, e quindi in sostanza se qualcuno viene da lei di questi clienti che state già seguendo e le chiede che cosa faccio, aderisco alla seconda proposta di scambio argentino o meno, voi non sono persone che seguite? No, noi le possiamo seguire in questo senso, che possiamo dare a queste persone l'informazione corretta dicendo: guardi, se da un punto di vista psicologico il fatto di ricevere il 33,7% tra X anni le sta bene e non ha intenzione o non ritiene di percorrere altre strade, lei nell'accettare questa proposta deve sapere che non potrà più adire in termini legali né nei confronti dell'Argentina né nei confronti della banca. Quindi è una scelta precisa che il bondholder fa e deve essere portato in termini chiari a compiere questa scelta. Non venga in banca a firmare perché è l'ultima offerta. L'ultima offerta, ma sa, di offerte, non, a parte il fatto che non sappiamo che se questa è l'ultima offerta, bisognerà vedere come si concluderà lo Si conclude, esattamente, sì, infatti. A fine mese poi il governo argentino dirà effettivamente se tutti gli investitori, perché poi tra l'altro per gli istituzionali l'offerta si è già conclusa a metà maggio, adesso ci sono ancora tutti i retail fuori. Detto questo, Rolici, io mi fermo un attimo con lei perché vorrei sentire il parere dell'altro legale, dell'avvocato Fiori. Cosa pensa su questa questione del fiscal agent? Ma mi spiace, mi sembra che Art e Rolici commettano un errore, nel senso non è vero che il fiscal agent è la banca con la quale si è eseguita l'operazione di acquisto dei titoli. Che cos'è il fiscal agent? Il fiscal agent delle obbligazioni è un intermediario finanziario che gestisce per conto dell'emittente, quindi della Repubblica Argentina e non per conto del singolo risparmiatore, alcuni adempimenti tributari e contrattuali relativi alle obbligazioni. Allora, se si prendono le offering circular delle obbligazioni andate in default, si vede benissimo che è il fiscal agent, perché lì è definito. E il fiscal agent, io ne ho davanti qui in questo momento 6 o 7, non è mai la banca che ha venduto i titoli, ma sono banche sostanzialmente americane, non so, Trust Company, Chase Manhattan, di nuovo banche, sono banche americane, banche sono d'affari, soggetti insomma. Completamente diversi da quelli che hanno venduto i titoli, quindi questa informazione sul fatto che aderendo all'OPS non si possa agire nei confronti delle banche è a mio avviso un errore, non bisogna sicuramente dare molto conto a questa limitazione, che la limitazione che c'è è nei confronti dell'Argentina e nei confronti di quei soggetti intermediari, l'exchange agent, sono tutte figure che cooperano nel collocamento dei titoli, ma tutti su incarico della Repubblica Argentina, non sicuramente nei confronti della banca. Dico questo, e siccome ho visto nei giorni scorsi le dichiarazioni di Art,

superati i 10 anni, praticamente dalla bancarotta non ci sarebbe più il tempo appunto per fare qualsiasi tipo di azione legale. C'è il problema aperto sia nei confronti dello Stato argentino, la TFA ci ha già dato ampie assicurazioni che c'è stata l'interruzione dei termini di prescrizione. Con le banche, secondo lei, come ci dobbiamo comportare? Poi so che su questo è un tema caldo anche per Rolic. Avvocato Barbieri, sì. Raccomandata interruttiva della prescrizione, il termine è il dicembre 2011 e bene che sappiano tutti coloro che hanno comprato anche prima del 2001, versione 98-97, andando indietro, in realtà non hanno perso la possibilità di agire e far valere i loro diritti, perché la prescrizione decennale decorre dal default, non decorre dall'acquisto. E questa benissimo. È una cosa che è importante da sapere. Avvocato, grazie per averci chiamato e magari ci risentiremo più avanti. Rolic voleva intervenire su qualcos'altro, sul fiscal agent, fare precisazioni. Non vorrei scatenare una lite in diretta, però dobbiamo comunque... come dire, testimoniare il fatto che è una questione piuttosto complessa. Io capisco come la interpreta lei, non ho motivo di dubitare neanche dell'interpretazione di Fiori, però. Assolutamente sì, lei ha perfettamente ragione, dottoressa, come peraltro la tesi dell'avvocato Florio è degnissima di essere presa in considerazione. Ai posteri l'audua sentenza. Magari però, la Consob, se ce la desse una sentenza. Però su questo. Ci vogliamo sempre accontentare del fatto che una volta buggerati abbiamo l'opportunità di fare causa, qui non è scoprire l'acqua calda. Il discorso è questo: se esistono tutte queste assicurazioni e riassicurazioni che il fiscal agent non è la banca che mi ha venduto i bond argentini, allora siamo tutti a posto. Se questo è la verità, da qualche parte sarà scritta, perché finché sono chiacchiere, nel momento in cui si va poi a consolidare i fatti, ci troveremo di fronte alle persone eventualmente che ritenendo di essere state in qualche modo costrette, vuoi per la fretta, vuoi per un motivo, vuoi per l'altro, perché non hanno avuto l'opportunità di leggere bene la modulistica che gli è stata prodotta e hanno accettato questo concambio, e in un secondo momento intenderanno muoversi con un'azione legale nei confronti risarcitoria, nei confronti della banca, se non lo potranno fare perché avevano firmato e avevano accettato la clausola che non avrebbero potuto fare azioni nei confronti del fiscal agent, andremo poi a verificarle queste cose, punto. Io ne prendo atto, sono d'accordo con l'avvocato Florio quando parla delle banche estere che sono identificate come fiscal agent, ma di fatto il risparmiatore italiano va nella banca dove gli sono stati venduti i bond, ed è questa banca che in quel momento funge da fiscal agent, e se una clausola dice che non potrò più attivare nessuna azione nei confronti del fiscal agent, allora mettetemi per cortesia nell'ambito di questa clausola anche la distinzione tra fiscal agent e fiscal agent, perché sennò continuiamo a raccontare delle storie. Rolic, io devo terminare la trasmissione purtroppo, però posso assegnare 10 secondi di tempo all'avvocato Fiorio, perché come al solito lo faccio concludere, casualmente capita sempre così. Abbiamo parlato di sesso degli angeli stamattina, cioè di una questione di lana caprina o di una questione di sostanza. Di fatto fino al 22 giugno c'è ancora tempo, per chi non l'avesse fatto, per comunicare alla propria banca se aderire alla seconda offerta argentina. 10 secondi di conclusione, avvocato Fiori, glieli concedo e saluto gli ascoltatori che non sono riuscito a fare intervenire. Mi dica. Ma la conclusione, a mio avviso, è quella per cui valutare attentamente, non c'è da strapparsi le vesti per questa offerta, può essere effettivamente l'ultima possibilità di recuperare qualcosa dall'Argentina. A nostro avviso non ci sono sicuramente limitazioni per agire nei confronti delle banche. Il movimento consumatori in questi anni ha seguito centinaia di risparmiatori, in molti casi con successo. La causa non è un'assicurazione, però chi ha acquistato i bond argentini può rivolgersi all'associazione che valuterà gratuitamente la fattibilità o meno del giudizio. Benissimo, e comunque abbiamo sollevato una questione importante, secondo me, quella del fiscal agent. Anche nonostante questa contrapposizione, magari ci fosse qualche organismo, anche qualche esperto di natura di questioni finanziarie internazionali, che ci dica bene, leggendo questo prospetto, chi è il fiscal agent citato. Grazie a Egidio Rolic, a Paolo Fiorio. Vi volevo segnalare che addirittura il governo argentino, ci è arrivata una proposta di intervista al segretario delle finanze Lorenzino, e noi gliela faremo nei prossimi giorni e ve la proporremo senz'altro. Poi ci torneremo su questo argomento quando l'offerta si sarà chiusa, per così verificare i risultati di questo benedetto, maledetto swap. Buona giornata a tutti.